direzione Gian Maria. Ehi, a voi che sei pisato? Io Gian Maria, sei rientrato adesso. E una ora? Come sarebbe a dire una ora? Signor Maria, tu sei? E allora che, da buon Natale? No, stai uscendo male, non riesco a capirti, prova a allontanarti il microfono. E adesso come sto? No, fuori tutto, boh, non si capisce nulla. No, come mi segnale prima, com'è? Segnale 9. 9? Sono 9? Sicuro che 9? Ma stai uscendo, tutto il saturo stai uscendo, non si riesce a capire. Segnale non essere più forte, dai. No, segnale 9. A che ora c'è 9? Ah, vai più poco di 9, ti sei abbassato. Esagerato? Ti sei abbassato, ti sì. Ok, dai, va bene così allora, dai. Cosa stai uscendo, non ci c'è bomba? No, la caffettina sicurina. Stavo provando, ma non mi piace a nulla, dai. Ok, e allora, sto a posto? Sì, e niente in ordine. Va bene adesso, sì. Sì, adesso sì. Adesso, però quando metti la caffettiera e si saturo. Tanto però l'impotenza non aumenta. Non aumenta un tubo, anzi diminuisce. Ok, vai un po' strano. Forza, io la posso dare. Va bene così, dai, bene mela. Oh, c'è ragione, perché da 8 si è passato a 9. Quindi avanti sei sceso a 8. Sto usando la soglia che sto usando adesso. Sto usando lo picco, quello vecchio. E c'ho il microfono, ce l'ho quasi a... neanche a uno ce l'ho, figato. Se aumento non capisci nulla. Ma no, lasciare stare così, così ti comprendo. Ok, dai. Oia. Così è. E allora, oggi sta a posto? Ehi. Sempre in giro e prendi commissione da una parte all'altra. Dovevi telefonare per prenotarmi, per passare, farmi le cose, le analisi, e invece non ho telefonato da nessun luogo. Vabbè, lo fai domani, se non siamo là. Vabbè, impegnato, purtroppo è così, non è che sei impegnato, Sono sei impegnato, lui è il mese di coglionista, so. Mentre sei impegnato, a me si muovi e tira. Vabbè. Io andiamo, beh, andiamo. Ieri avevo sentito il signor Macchisi, oggi no, non la gente si va nulla. Oggi è un casino, Macchisi è un casino, sto parte domani lo devo recuperare, posso domani, dopo domani. Devo aspettare per fare le analisi e altre cose, capisco. L'ho chiamato poc'anzi, l'ho chiamato. Speriamo bene, dai, c'è ancora adesso, boh. Caspita, ma non può continuare a star così, no. Non può continuare a star così. Ma se il talletto della taxi da può fare. Può fare nulla. Adesso forse non si sa. Sarebbe meglio, può darsi un ricopro domani. O domani, o domani, vedo. Deve fare così. Come si può pensare, non sforzare, è un casino, dai. E chi è che stava modulando sopra? Cazzo, ci vogliamo modulare sopra, ci vogliamo modulare. Ma loro se ne sono avvisati che ti stavano sopra modulando. Ho capito che ho... Aspetta, ma fino a po', io ho sentito. Avanti, che sei Franco, sì. Perché non è amico che sta modulando, avanti. Però ho sentito che stavo modulando. Aspetta che sto attaccando l'altro palizio, se no... Caspita, ma forse sono vicino di canale o sono fuori frequenza, non si capisce un H, è entrato però, tutto fuori frequenza. Non so io, vocale se si... no, sono in un altro canale, però vedete c'è che... Boh, è un altro canale. E vabbè, se vuoi entrare, noi siamo qua, dai. Non c'è da fare, noi siamo qua. Se vuoi entrare... E così ho capito, perché si è chiamato e non sto spiegando. Ah, così è. Andiamo via, andiamo. Adesso vediamo, boh. Eh sì, facciamo così, facciamo. Purtroppo così avanti non può andare. Io fa così bisogna fare. Se qui dovevi sapere, la sono dolore, dolore, lei sta scherzando, ma sto bene, domani se lo ricordo. E mi ricordo forse come c'era qualcuno, lo faceva ricordare, allora fa l'analisi e controlla quello che c'hanno, ora. Sta aspettando l'esito, ma aspetta 15 giorni, noi via, l'abitiamo oggi. Andiamo bene, andiamo. E tu? Ma te l'hai dato l'esito a te? A me non l'hai dato l'esito, io ero una cosa chetta. Positivo, io, mia figlia, un giorno è negativo, devo lavorare, non dico che devo lavorare. E la moglie ancora non è arrivato l'esito, mia moglie. Mi riporto... negativo e piccolino positivo, comunque lunedì non ho avuto il tampone, però se faccio, io al 10 faccio quasi 21 giorni faccio, anche se il risultato positivo in settimana, rientro a lavorare, loro mi fanno il certificato che è contagioso, capito? È già passata la quarantena, dopo 21 giorni la quarantena è già passata, non c'è più contagio, capito te? Ho già compreso. Aspetta, siete baciati tutti in famiglia. Dai, dai, andiamo e andiamo. Se ti sei dicendo che la spesa, non sta portando mia cognata, la spesa. Mia cognata è il padre di mio genio, figurati. E io non posso uscire, mia figlia non può uscire. Adesso mio genio non può uscire. Adesso la sua mamma esce lui, capito? Lui può uscire. Ormai è già passato, anche il foglio è arrivato, la ATS. Può uscire e tutto a posto. E se lui casa è buono. Certo, andi per andi. L'hai visto le restrizioni che ha messo? Ah, il giorno 24 dalle 22 alle 7 del mattino, il 30 dalle 10 di... dalle 22 alle 7 del mattino. Hai compreso? Vabbè, poco parole, vanno a casa e basta, ognuno a casa sua, boh, e lo vai, viene gente alle 10 e quella non va via, non stiamo scherzando. Purtroppo, non puoi andare in nessun luogo la notte, però a pranzo puoi andare anche a altro luogo. È un casotto, è un casotto. Purtroppo c'è una pagina di televisione, e sto sedendo in locale, che c'era. A quella donna, super urgente, c'era commissario per la villa, non so quante presenze le persone hanno fatto, figurati, uno sta cadagliato. Sì. Hanno fatto le restrizioni, hanno fatto. Chissà è di come ti giovi invece, in famiglia. È quello lì, no? Ma, speriamo bene. Se ce ne hanno fatto burubaete così, che te gane mangiatori. Ma la tua ci credi, è di minimo, sono 50 persone in casa sua. È sicuro, sì? Di sicuro sì, ci saranno 50 bassoni. Ma vabbè, già c'è un ghittanno, poi all'anno che viene già c'è un baduto. Speriamo bene, ragazzi, lo posso andare, che c'è io. Speriamo bene, oh, è un casino. Da fine anno dovrebbe essere il vaccino, ma da fine anno, a fine gennaio, inizieranno a darle a tutti, prima i medici, poi gli anziani e poi tutti quanti gli altri, a piano. E vabbè, tutte le persone che hanno patologie e poi a quelle normali, là, è anche giusto. Medici, qualsiasi via prima. È giusto così, avanti. E il segnale, se per 9, sì. Adesso è 9 il segnale. Oh, è un po' satura. Fatto così, ha comprenditi. Guarda se va bene adesso. Avanti già, baciato, adesso sì. Va bene, dai. Andiamo poi, andiamo dopo, boh. Sì, ma bisogna dare un microfono, che sennò non ti intendo. E allora, va bene, dai, lo mettiamo così, dai. Oh, io anche al sotto, vuoi venire dal ballo? Sì, oh, yeah. Che aspetta. Bisogna fare così, bisogna fare le restrizioni, quindi me ne resto in casa e mangiamo i miei mogliri, purtroppo. E mi cucineggio la riuscita, mi cucineggio. Guarda, per me che non c'è da mangiare bene e c'è per Natale, a me Natale non sono come gli altri, hai capito? E si farà festa per i bambini e così via, se no Natale per me è ogni giorno. Cancia la salute, la vita e luce, dai, avanti. E vuol dire che faccio videochiamata e gli do un auguri dal telefono. E anch'io, parlo così. Vabbè, io mio figlio che sono a casa, dunque. Se non chiedono vado dalla suocera, boh, non lo so. E vabbè, non mi ha fatto nulla, dai, per me non mi cambia la vita, capito? Non mi cambia la vita. Lo so, purtroppo io... andare a casa di me figliura e andarmene via alle 7 non manda, quindi me ne resto a casa e vado via e vado a direttamente a cucambi. Sono alle 7 di mattina, domani è il tuo giorno e di mattina poi alle 7, ma che la tua ti corichi e me la devo mangiare poi da quello. Sì, ma da voi se siete fatti a casa di mio cognato non vi posso alzare. Non dire, se sale deve rimanere fino a mangiare, oia. Dov'è la Monte Conchino? Oh, su in alto nella punta di San Francesco. Capito, vicino a Marco, guarda, patretta. Dove c'è la chiesa? Ancora più avanti, appena più avanti. E vabbè, al contrario di Marco, Marco è venuto sto qua. Ho capretto. Ti faccio per andare dove c'è il cimitero degli animali. Ho capito, dove c'è il mulino, là. Infatti faccio il mulino, vai un po' avanti e poi trovi un'altra salita, ma una strada che risulta nei rudi. Figurati, oia. E poi non mi piace la strada a me. Beh, da c'è una formata farà. E chi vi cando di ravento? Oia. Se si boccia tutto, anche le olive. Figurati, oia. Oia, bene mela, sono attore, è un caso, qual è? Ebbene, te lo dico prima delle vesti, te lo dico. Ebbene, Gian Maria, buonasera, ben entrato, avanti. Buonasera Maria, buonasera anche attore. Cos'è ci avete detto a me, aiuto? È un casotto, Gian Maria, è un casotto. Forse macchiglio, forse non si sa. Se domani dopo domani si deve ricoverare per le analisi e poi fare qualche altra cosa e via. Se fa due ore, un casino è, Gian Maria, un casino. E va bene, dai. Avanti, Tore per Gian Maria. Buonasera Gian Maria. Sì che se ne frega più di noi. Cos'è? Ma sei tu ti nafuti più di noi. E perché mi nafuti? Che fa cosa? Ma che ti nafuti? Che hanno base, ma che hanno base drone, che hanno base. Oh, Giulia. Ehi, Napoli. Stamattina siamo usciti e dovevo fare una lagna, cazzo. Sarà freddo, questa quasi un'ora fermo durante la macchina per freddo in macchina. Hai sentito che dice da voi si può fare alle poste, sono quittato da troversa ieri durante la macchina, ma c'è vera freddo oggi sto, era freddo ma freddo da voi mi ha pigliato un freddo addosso, non riesco a cavarmi il tiro dai sono arrivato a casa. E Gian Maria se va giù a calato la temperatura ha calato, va bene Gian Maria, è tempo suo, là. Siamo di dicembre, siamo a 3 dicembre ed è tempo suo, non ci possiamo lamentare confronto a quelli del continente o poi quelli dei paesi, là. Per me davanti to. Infatti, no, stamattina c'è la fredda, era 6 gradi stamattina, perché ha fatto neve a Coso, a Traforni e Montespada. Quelle zone lì ha fatto neve. E di a casa da andata rimani, quindi e tu chiedeva che sta zona posto. Già li ho visti già, è tutto bianco, ecco. Almeno prima di Natale lì i cose, la funesia dovrebbe camminare, sì. Almeno si giocano un po'. Stiamo a fare i vesi, Giammaria. Non per le feste, perché il governo ha chiuso tutto. Le piste le fanno funzionare dopo le feste. Dall'8 gennaio. Buonasera. Buonasera anche a lei, un attimino, che lo faccio entrare subito. Ecco preso Giammaria. Lei già lo so, già l'hanno detto, che lei è un macello. È un macello, va. L'importanza è che già siamo in casa lui. Ci mettiamo i pattini e siamo qua dentro casa lui. Infatti, più che questo non si può fare. Aspetta che ti facciamo entrare, avanti. Pappa, dai, sono passato a salutarvi. Sono Don Giammaria, te... non mi ricordo l'altro chi c'era. Comunque salutoni a tutti in generale, dai. Vi ho salutato adesso perché adesso scendo giù a mangiare, c'è nel baracchino, vi ho sentito. Ok, mi sembra c'era anche forse Marino, non mi ricordo chi c'era. Ok, salutoni a tutti in circolare Antonio Bombo da questa parte. Faccio il signore ultimo, però ti sento qui a casa leggermente un po' nasino la modulazione, leggermente, ti confermo la portone. Ok, ciao, grazie del saluto. Ok, mangia anche oggi tu. Sì, no, sto già cenando. Dai, devo andare, sì, lo so che fa così. Ok, dai, ti passo a Tony Anton, grazie del saluto, saluto anche te in casa e buona cena, avanti tu. Se così un po' meglio, no? Ci risentiamo alle prossime, buona cena, avanti Giammaria. A campo basta, lo sentivo, Antonio, comunque, buonasera, mi hai sentito, è buon cuore qui, ci sentiamo alle prossime. Ok, vai Maria. Prima, vuoi dire qualcosa Antonio? Avanti tu, cosa già chiuso, è così. Ma qui arrivava lo spalazzo Antonio, lo sentivo leggermente un po' nasino, leggermente, probabilmente sia mio apparecchio, però non lo so. È così, è tutto chiuso Giammaria, tutto chiuso, se ne parla a gennaio, chi vuole sciare? Vado a sciare a gennaio, avanti tu. Mi c'è nel giornale di oggi, c'è le restrizioni che ha fatto, c'è nel giornale di oggi. Dunque bisogna controllare tutto, non vendere qua. Noi a gennaio andiamo a sciare, tu, ci viene a sciare. Sì, a chi no, dare un freddo. io sto sperando che faccia chissà neve, che ha fatto un anno. Non so cosa ti rammenti, ero minore due io. A me la mangia un po' di micro, vedrai. Un po' di micro, e poi c'è anche un po' di caldo. Quando c'è neve c'è caldo, non c'è freddo. Avanti, Giovanni. Tutti i mesini, vai. Almeno se facciamo il Natale dentro casa, chiusi. Ma niente si cocca, dove se vuoi fare Mari? Ci vediamo una bella ciccia, che avevamo crebbia, vero to? Io non credo, ma certo, così anche su giuro. Vuol dire che la notte mi accontento così. Già va bene, purtroppo. Purtroppo quest'anno è andata così, non c'è niente da fare, per andare peggio. Avanti Giovanni. Infatti, è un macello. Vabbè, va, vi ho sentito, vi ho salutato e ne sono andato, va. Io ho fame, per cui ne approfitto. Ma chi se lo sei sentito? Comunque, se in ascolto lo salutiamo. A domani, se col Chile a Marì. Buon proseguimento in famiglia. Altrettanto so, riprendi il tuo chiudo, vai. Dai, almeno ci siamo salutati, se va. Andate, Giammaria, ci va bene. Ok. Stammi bene, ci sentiamo domani. Se ci riesco a farti qualcosa, domani, no. Quando appena sono più libero, ci passo e te li faccio. Ok. Alle prossime, Giammaria. Avanti, Mari. Benissimo, Giammaria, tutto è cambiato al centro. Dai. Buonasera, ci vediamo. Ci sentiamo domani se coincide. Benissimo, avanti, to. Ok, avanti. Tra poco demollo pure io, demollo. Anche mi so ciamelli, aglio, andi voi andare. Ma già avevo 8 sono, non mi sbaglio, non sono neanche un uso qua. Meno 10. Per quello, vabbè, ognuno ognuno cena all'ora che deve cenare, purtroppo poi c'è quello che deve prendere le pastiglie, c'è quello che ognuno. Noi a casa 8 e mezza, 9 e mezza, magari così più o meno. Vabbè ragazzi, già mangiamo prima, noi mangiamo verso quell'ora più o meno, dai. Oh, io se non c'è nessuno, che siamo in due, alle 8 mangiamo. Purtroppo così, non si da fare. Già se mangi presto almeno dici prima e ti curi tranquillo. Se mangi tardi invece rimane sempre lo stomaco pieno e via. Vabbè, io questi giorni già mi sto guardando la televisione fino a tardi. Non vado manco un giorno, non vengo a me. Mi sono domenica, ragazzi, da 1:30 e 2, boh. Questi giorni non è neanche sonno, neanche il sonno, suo figlio. È un casotto, speriamo bene, l'altro. Poi, no, io ho già fatto degli da manera. Le batterie a destra ora vanno nel fetto e vanno nel drummi. Tu c'hai le pastiglie insieme a Morfeo. Morfeo è il re del sonno, via da te. No, io questi giorni la porto a casa, sono niente. Quando sto lavorando, forse la stanchezza. Arriva quell'ora e arriva Morfeo e non vento, capisci, se no non te la va. Io non vedo molto che mi trommo io di vano, mi trommo. A da voi, fammi con il roletto. Sento, gira, gira che non piglio il sonno. Perché succede così, succede ciò. Succede così, purtroppo. Vabbè. Anziano sei tu, sei anziano. Ce ne ha tutti, piano piano. Tira davanti, finché posso tirare avanti, se no da voi. Pazienza. Caro Giano, San Pietro, a Temo, stanno chiama. Meglio che chiami più tardi possibile, già veniva a ieri, già no. Infatti, ma... Già me l'ha giubbato un mio. Sì, esatto, è stato un po' male, purtroppo. A tua 70 ci arrivi, sì. Guarda, fra 2 anni te lo dico. Ho già capito, basta, lei sei giovane, io sei giovane, va. Ci devo la metà di arrivare a 69, me l'ho già fatta. Allora sei giovane ancora. Fiori, ma chi sono? 70, 76 ma chi sono? Caspita. Ed è tutta durori. Figuriamoci. No, speriamo che non arrivi a io così. Quello lì è tutto il lavoro che ha fatto la giovane. Mi faceva fare la pista, era incinato, la schiena, e questo qua magari prendeva un colpo e anzi di andare a farsi controllare, si prendeva la pastiglia per passare il dolore, eccetera. E peggio di me, io per il ginocchio, ho arrivato così, ogni colpo, andavo a casa, la bustina e ti passava, così andava. Alla fine il ginocchio si andava contro il giuglio, non diceva nulla. E poi sono ortopedica, domani mi curia. Ogni cosa manco, ma dove vuoi andare in questo ginocchio? Non basta quello che c'ha. Tutto messo male, cartilagine zero, menisco, non veniva più, figurati. E con quello i dolori? No, io un po', secondo come quando mi siedo a tavola, secondo come mi alzo, mi viene un piccolo dolore. Ah, adesso ho chiesto al coso di mandarmi da un ortopedico a vedere cosa è. Eccolo, a fine gennaio se ne va via. Ormai è sotto gennaio, le viste sono da gennaio, hanno tutto rinviato, purtroppo. Purtroppo è così. Tu magari sono anche come facevo da cancino, i colpi che prendevi sul camion. Probabile sia pure quello lì, è tutto insieme, hai capito? Infatti è tutto insieme, biglia freddure, buru, come di dai e tutto canto. Vabbè, tanto che vi gioco da dai dove potete controllare pure la Cina. Andiamo verso sera, uno e l'altro, purtroppo, così lo profitti, no? Sì, domani sera devo andare all'oculista a accompagnare mia moglie e me la porto pure io la visita. Se c'è posto me la fa anche a me. Dove dovete andare? Privato? Privato, lì punti. Ho capito. Così non confitti. E fa uno e l'altro. Infatti. Che se ne ha tutti. Guarda vedere se gli occhiali mi vanno ancora bene. Ma penso di sì. Perché l'ultima volta che ho fatto la visita per conto del diabetico. ho fatto, mi ha detto che già vanno bene ancora. Ah, e più arrivato me li voglio bene fa. No, ma approfitti. Il dottore è qui, se non ti dice no, tu non fai, basta incassare i soldi lui, basta. Sono uno, sono due, entrate insieme e fa uno e l'altro. E infatti che così, siete, va, mattina acqua, pomeriggio acqua, e sera acqua. E notte Eva, assai voi. Tutto acqua, va, tutto anche da Eva, andate e andate. Tutta la di Eva appunto. Ma bisogna vedere domani a Manzano se devo fargli un goccio. Vabbè, io ne approfitto, Mari. Ci risentiamo alle prossime, a domani, se tutto va bene. Ok, ciao signor Mari, mi stia bene, buona cena e tutto quanto. Mi saluti a tutti quanti. Anche gli ascoltoni. E certo, tutto è cambiato, è stato in casa, buona cena. A domani se concilia. Ciao ciao. Ciao Mario.